Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, incontro con lo scrittore israeliano Amos Oz. Nel suo ultimo romanzo, Giuda, profonde riflessioni sul tradimento come motore di crescita e progresso. Immaginare una comunità tamil che vive nei sotterranei di Napoli, dove costruisce anche una biblioteca. È la trama di un libro di un giovane scrittore, Alessio Arena, che si divide tra Italia e Spagna. Incontrare lo scrittore israeliano Amos Oz, devo dire, dà sempre una grande emozione. Lui è uno dei più grandi scrittori israeliani viventi, insieme a David Grossman e Yoshua. È un autore che nei suoi romanzi ama indagare proprio l'animo umano con tutte le sue contraddizioni. Amos Oz è un uomo pacato, tranquillo, lo sentirete anche nell'intervista, parla anche molto lentamente. È una persona che riflette molto, sia prima di scrivere che di parlare. In questo ultimo libro, che si intitola Giuda, pubblicato in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Elena Lewenthal, Oz fa fare ai suoi personaggi una serie di riflessioni sul concetto di tradimento. In fondo, questa è la tesi, solo tradendo lo status quo si ha il progresso, si va avanti, si cresce. Rapidamente vi illustro la trama. Gerusalemme fra il 1959 e il 60. Shmuel è uno studente universitario che sta lavorando alla tesi Gesù visto dagli ebrei. Per problemi economici abbandona gli studi e accetta il lavoro, forse diremmo sì, da badante, insomma deve far compagnia ad un anziano signore in una casa a Gerusalemme, appunto. Questa casa è abitata dal settantenne Wald e da una giovane donna, strana, molto attraente, che si chiama Talia. Wald è un uomo molto colto che passa il suo tempo raccontando a Shmuel episodi della sua vita privata che si intrecciano alla storia di Israele. Il romanzo, dicevamo, offre vari spunti di riflessione sul concetto di tradimento. Amos Oz non dà mai risposte, anzi, attraverso i pensieri e le riflessioni dei suoi personaggi, ci fa porre domande su cosa sia il tradimento e su quali possono essere le sue conseguenze, come lo stesso Amos Oz ci spiega. Well, in the first place, I never write novels to offer answers. I do this in my articles, I do this in my political interviews. Innanzitutto, non scrivo mai romanzi per dare risposte. Le risposte le do nei miei articoli, o quando rilascio interviste su temi politici, o quando tengo conferenze. I romanzi hanno a che fare con le domande. E questo romanzo si conclude con una domanda. La fedeltà e il tradimento sono temi universali, sono faccende che toccano ciascuno di noi. Ognuno di noi, in qualche momento della propria vita, è stato un traditore, almeno agli occhi di qualcuno. In some way we betray our childhood. When we leave our parents behind. Quando cresciamo, in qualche modo tradiamo la nostra infanzia. Quando lasciamo i nostri genitori per sposarci, in un certo senso tradiamo i nostri genitori. Questo fa parte della vita. Quindi questo romanzo è la storia del rapporto tra la fedeltà e il tradimento. Ma è anche la storia tra le grandi e semplici cose della vita. L'amore, la perdita, la solitudine, il desiderio, la morte. Cose di cui tutti abbiamo avuto esperienza. Il libro si intitola Giuda. È inevitabilmente legato naturalmente alla religione e il giovane protagonista lavora ad una tesi di laurea. La sua teoria è che senza Giuda Gesù non avrebbe potuto fondare il cristianesimo. Se non ci fosse stato il tradimento di Giuda, Gesù non sarebbe stato crocifisso e non sarebbe nata la religione cristiana. Quindi il bene, diciamo così, non può esistere senza il male. Giuda è una figura rivalutata, almeno dal suo protagonista. The title of the novel is Judas, but Judas is not the protagonist. He is a ghost. Jesus is a ghost. Il titolo del romanzo è Giuda, ma Giuda non è il protagonista. È un fantasma. Anche Gesù nel libro è un fantasma, e lo è anche Ben-Gurion. C'è una piccola casa, tre personaggi viventi e molti fantasmi. Il punto non è che il bene non possa esistere senza il male, perché nel libro Giuda non è affatto il male. E non c'è alcun tradimento. Nel romanzo, secondo il concetto che Shmuel ha della storia, Giuda crede in Gesù molto più di quanto Gesù crede in se stesso. Giuda crede che Gesù sarà crocifisso, crede che possa scendere vivo dalla croce davanti a tutti, e questa sarà la sua redenzione. Questo sarà l'inizio del regno del male. Gesù non è sicuro, esita. Jesus is not certain, he has hesitations about it. You see, the way the story is told. Vede, il modo in cui la storia è raccontata nel Vecchio Testamento non l'ho mai accettato, e nemmeno Shmuel l'ha accettato. Perché un uomo benestante dovrebbe vendere il suo maestro per una somma relativamente modesta di denaro? E se lo fece, perché sarebbe andato ad impiccarsi lo stesso giorno? Inoltre, il bacio più famoso nella storia, il bacio di Giuda a Gesù, perché lo ha fatto? Non c'era bisogno che Giuda indicasse chi fosse Gesù alle persone che erano venute ad arrestarlo. Tutti sapevano come Gesù fosse fatto, e Gesù non cercò nemmeno di nascondersi. Non ha mai detto, no, non sono io, sono Bill Clinton. Quindi tutta la storia è assolutamente inaccettabile. Eppure questa storia, per migliaia di anni, ha favorito la diffusione dell'antisemitismo. Tens of thousands, perhaps millions, of Jew-hating Christians. Decine di migliaia, forse milioni di cristiani che odiano gli ebrei, hanno identificato ogni ebreo con Giuda. In alcune lingue, poi, ebreo e Giuda sono la stessa parola, Jude o Judas in tedesco. Penso che il modo in cui Shmuel racconta la storia sia più convincente di quello che ci hanno sempre raccontato della vecchia storia. È innegabile però che seguendo il ragionamento di Shmuel si arrivi a pensare che i veri innovatori, i veri progressisti nel mondo, chi porta nuove idee, è un traditore. Amos Oz condivide il pensiero di questo suo personaggio o no? Sometimes yes. Sometimes yes. I think Shmuel has a point in saying that. Qualche volta sì. Penso che Shmuel abbia ragione quando dice che in alcuni casi un traditore è semplicemente una persona che ha il coraggio di cambiare agli occhi di chi invece odia il cambiamento. È sospettoso verso il cambiamento, respinge il cambiamento. La storia è piena di queste personalità che anticipavano i tempi ed erano perciò chiamati traditori dalla propria stessa gente. All'interno di questa casa Shmuel, diciamo, assiste un anziano signore molto colto, insomma, che ha tante cose da raccontare e infatti gli racconta molte cose della storia anche di Israele, molte cose sue personali, della sua famiglia. Come vive questo rapporto Shmuel? Che cosa vede in quest'uomo? Because Wald challenges some of Shmuel's beliefs. Shmuel's perché Wald sfida alcune convinzioni di Shmuel. Shmuel entra nella casa a Gerusalemme da marxista, amante di Che Guevara e Fidel Castro. Ma quando lascia la casa è scettico. Wald è scettico. È una persona veramente molto sacrilega. Si oppone a qualsiasi religione, a qualunque ideologia. Ma non perché il mondo sia perfetto ai suoi occhi, non lo è. Ma perché lui pensa che le religioni e i movimenti che hanno provato a migliorare il mondo hanno finito per far spargere molto sangue innocente. Per Shmuel questa è una sfida e deve affrontarla. And he has to cope with it. But there is something even more important. Wald, 70-year-old. Ma c'è qualcosa di ancora più importante. Wald ha 70 anni, Atalia 45, Shmuel 25 anni. Sono molto diversi l'uno dall'altro. Idee diverse, idee politiche diverse, personalità differenti. Alla fine del romanzo arrivano quasi ad amarsi l'un l'altro. E questo per me è il piccolo miracolo di questo romanzo. Non capisco esattamente come sia accaduto nel romanzo, ma è successo. Is the little miracle of this novel. I don't entirely understand how it happened in the novel, but it happened. Infatti si ha la sensazione che all'interno di questa casa il tempo sia sospeso, anche lo spazio, la differenza di età appunto non conta, è tutto, come dire, un flusso di pensiero e di ragionamento, è un confrontarsi. Era questo che voleva comunicare ai suoi lettori? Oh no, not only. It's true that people in this novel stay most of the time. Oh no, non solo. È vero che le persone nel romanzo stanno per la maggior parte del tempo chiuse in casa, in una situazione claustrofobica, in compagnia dei fantasmi e dell'inverno. E parlano. Ma non si limitano a parlare. Loro provano emozioni. E le emozioni cambiano in silenzio, in continuazione. Cambiano i rapporti tra di loro. I protagonisti del romanzo non cambiano all'improvviso, come se ci fosse stato il Big Bang. Cambiano lentamente per tutto l'inverno. They don't change in a big bang, but they keep changing throughout the winter. In molti suoi libri, infatti, i personaggi subiscono un'evoluzione, cambiano il modo di sentire più che il modo di pensare. Che cos'è che le piace indagare nell'animo umano e nelle sue varie sfaccettature? You know, there is something which a novel can do, and a short story, it's almost impossible. Sa, c'è qualcosa che il romanzo è in grado di fare e che invece per le storie brevi è quasi impossibile. E si tratta della quasi impercettibile deviazione della traiettoria nella vita. Come fa la gente a cambiare senza nemmeno accorgersi che sta cambiando? Penso che questa sia la cosa più interessante che riguarda le persone. Come possono cambiare senza rendersene conto? E non dal giorno alla notte, non rinascendo di nuovo, ma millimetro dopo millimetro. Ed è molto interessante da osservare. Sa, qualche volta si parla con le persone, specialmente gli uomini che sono peggio delle donne in questo contesto. Tu parli con un uomo che ti dice esattamente l'opposto di quanto detto 5 anni prima. E allora tu dici, ma guarda che 5 anni fa hai detto l'opposto. E allora lui dirà, no, ho detto la stessa cosa, sei tu che non mi hai capito. E questo lo fanno specialmente gli uomini. Le donne non sono così cattive. No, I said the same, you did not understand me. Especially men, women are not so bad. E questo era Amos Oz, ora in libreria con Giuda, pubblicato da Feltrinelli. Grazie a Barbara Bianchi per la traduzione. Quiero contar algo que me está pasando ahora. Non è un caso questa canzone, perché il giovane scrittore di cui vi parlo è anche musicista ed è sua appunto questa canzone. Lui si chiama Alessio Arena, napoletano che da tempo vive a Barcellona. Era stato uno dei finalisti della prima edizione del premio letterario Neri Pozza rivolto a romanzi inediti. Arena non vinse, però alla fine la casa editrice decise di pubblicare tutti e 5 i finalisti, quindi è arrivato ora in libreria La letteratura tamil a Napoli. Questo è il titolo del romanzo. La storia appunto è ambientata a Napoli, l'autore immagina che la comunità tamil viva nei sotterranei di questa città. Il romanzo è un miscuglio di tradizione indù e folklore napoletano, un racconto corale. Possiamo dire che si ride e si piange dello stesso tempo. È un romanzo dove realtà e fantasia si mescolano, fra personaggi che sono metà uomo, metà elefanti, pizze fatte con ingredienti indiani, gocce di Buddha lanciate nel Vesuvio e santi indiani super muscolosi. Adriano Palazzolo ha incontrato l'autore. La letteratura tamil a Napoli. Potrebbe sembrare il titolo di uno studio di un dipartimento di letteratura di chissà quale università, invece si tratta di un romanzo. Come mai la scelta di un titolo simile? È stata una scelta combattuta. All'inizio il romanzo io l'avevo immaginato quasi come una cover, come si fa in musica. Il titolo doveva essere un omaggio dichiarato, abbastanza spudorato, a un altro libro che gli somiglia molto, che è La letteratura nazista in America, di Roberto Bolaño. uno scrittore cileno che sicuramente è tra i miei riferimenti, con il quale poi condivido anche altri dati, magari insomma che non c'entrano niente con la letteratura. Lui aveva scritto quel romanzo nella stessa strada dove io vivo a Barcellona. Lui ebbe lo stesso problema per pubblicare la letteratura nazista, perché era sembrato all'editore, che penso fosse Anagramma, un saggio. Poi lui cosa faceva in questo libro? Raccontava un romanzo attraverso un processo narrativo assolutamente bizzarro, innovativo, che erano biografie di scrittori assolutamente inventate, però che sembravano vere. Di questi scrittori si sapeva le opere pubblicate, le riviste letterarie alle quali avevano collaborato, e faceva muovere questi personaggi poi in una storia, insomma se lo si leggeva come un romanzo. Non c'entra niente ovviamente questo libro con quello di Bolaño, è rimasto un po' solo il titolo e l'idea, perché poi insomma il mio romanzo è costruito in un modo molto diverso da quello, è raccontato da due narratori in prima persona, c'è un cambio di punto di vista, un cambio di narratore nell'equatore del romanzo, che è formalmente diviso in due, però insomma il titolo è rimasto quello lì. Ecco, a proposito di quello che hai detto anche sulle difficoltà che ha avuto Bolaño a trovare un editore che lo pubblicasse, non pensi che il titolo del tuo romanzo possa essere in qualche modo respingente? Sì, magari sì. Io pensavo che fosse più riconoscibile l'omaggio. Certo, Roberto Bolaño è uno scrittore di culto in tutto il mondo ispanofono, ma anche in Italia, però non è magari poi chissà quanto conosciuto, non è tanto conosciuto come io pensavo che lo fosse. Magari, insomma, si meriterà, avrà i lettori che si merita. Chi sono i Tamil e perché si nascondono nei sotterranei di Napoli? I Tamil sono un'etnia proveniente dallo Sri Lanka, un paese al sud dell'India. Hanno vissuto una guerra molto sanguinosa per avere uno stato indipendente nel nord dello Sri Lanka contro il governo singalese, che è l'altra etnia dello Sri Lanka. Poi c'è stata una diaspora conseguente alla guerra che ha interessato entrambe le parti. Si ritrovano a Napoli nel mio romanzo. Nei sotterranei di Napoli costruiscono un'accademia segreta letteraria, sono in 10, tante quante le reincarnazioni del dio Vishnu che scende sulla terra per ristabilire il Dharma ogni qualvolta c'è veramente un problema serio da risolvere per l'umanità. Diciamo che loro riempiono i sotterranei di Napoli, che hanno sempre nella storia rappresentato un luogo di assoluta vitalità, un'alternativa di salvezza per la città, perché sono stati usati sempre come una scorciatoia, un luogo dove ripararsi da quello che succedeva in superficie. Riempiono i sotterranei di Napoli di contenuti inediti, ci costruiscono addirittura una biblioteca che è imitazione ad un'altra di un'altra biblioteca che fu incendiata durante la guerra, costruiscono una città nella città. Già la copertina del tuo libro è una dichiarazione di intenti di quello che poi andremo a leggere. Sulla copertina c'è un esercito di divinità indiane che hanno una maglietta con una stampa di San Gennaro. Come fai a mescolare tutto? Invento questo sincretismo tra l'induismo e il cristianesimo assolutamente pagano che si respira a Napoli, in tutto il sud Italia, che non si è ancora dato nella realtà, non c'è stato questo incontro, ma che potrebbe essere possibile, perché già di per sé entrambe le culture religiose sono essenzialmente sincretiche, hanno avuto dei lasciti, si sono mescolate con tante altre tradizioni nel corso della storia e hanno dato così una possibilità a quelle di sopravvivere. Napoli è una città assolutamente sincretica, prima greca, poi romana, poi normanna, poi catalana, spagnola, francese, c'è un po' di tutto di quella gente, e i Tamil hanno raccolto dentro di sé un po' di tutte le popolazioni con le quali sono entrati in contatto prima di arrivare a Napoli. Ovviamente io esagero, lo spingo fino ai limiti, per cui è molto facile nel romanzo trovare delle madonne con proboscidi dei San Giuseppe santi che ricalcano un po' quell'iconografia induista del santo muscoloso con la pelle colorata, San Gennaro che a un certo punto pare che per il quale è difficile reiterarsi nel solito miracolo e viene prontamente sostituito da un Buddha. Racconto questa nuova città, questa nuova Napoli, da una prospettiva, insomma, essenzialmente ironica. Il mondo che descrivi all'interno del tuo romanzo è del tutto simile al nostro, è una Napoli alternativa a quella che esiste in realtà. Ci sono però dei piccoli dettagli che ci fanno capire che in realtà stiamo leggendo un romanzo di finzione, come ad esempio la macelleria vegetariana oppure un tipo particolare di pizza. Sì, la macelleria vegetariana è perché vegetariana? Perché quelli che vendono la carne hanno fatto una promessa di non toccarla neanche con le mani. Infatti, insomma, probabilmente la tagliano con coltellacci molto, molto lunghi. E addirittura questa carne loro la vendono. Perché? Perché uno dei personaggi del romanzo, che è un macellaio ma che è anche il mentore dell'Accademia dei Sotterranei di Napoli, usa la sua macelleria proprio come spazio per sensibilizzare i suoi clienti sui temi della guerra nello Sri Lanka, della cultura tamil, della nuova cultura tamil, della cultura napo-tamil. E lui dice a un certo punto che la decadenza del genere umano è iniziata da quando gli uomini hanno mangiato gli animali. Questa macelleria è invischiata un po' anche con la camorra e con una famiglia camorristica che ha, insomma, contatti con la comunità singalese di Napoli. Pare insomma che i napoletani che mangiano molta di quella carne che loro vendono, svendono, regalano, sono più malleabili, insomma sono più facilmente controllabili. La pizza, mi dicevi, la pizza Paruppusilli, che poi il giorno della nascita del romanzo che è stata veramente realizzata da una pizzeria di Napoli. Una pizza che io ovviamente avevo inventato nel romanzo, che serviva nel romanzo per raccogliere dei fondi da mandare nello Sri Lanka. Allora io immagino che una pizzeria del centro di Napoli avesse realizzato questa pizza che non aveva prezzo, la si poteva pagare anche 100 euro. Ed è stata realizzata, è una pizza con dei fagioli, non dei fagioli, delle lenticchie rosse tipiche indiane che si chiamano Paruppu. E la pizza Paruppu sì, l'ho provata, era buona. Adesso leggo una frase che viene pronunciata da Gennaro Bibbarò, uno dei personaggi del tuo romanzo. Lui ad un certo punto dice: essere napoletani, più che una condizione di fatto che si acquisisce con la nascita, è una specie di stato mentale, un modo di intendere il proprio destino sulla terra come passeggero, profondamente inutile e quindi privo di qualsiasi obbligo morale. Il popolo napoletano è davvero così? Sì, ed è per questo che a Napoli è tutto lecito. È tutto lecito perché tanto dovrà finire comunque. C'è una fine molto vicina per tutti. È tutto così spinto verso il borderline. Quindi io ho sempre immaginato la città così, dove tutte le cose sono talmente al limite, stanno quasi quasi quasi per finire, che interpretano se stesse e improvvisano anche una libertà che potrebbe essere impossibile, inimmaginabile in altri posti del mondo. E questo era Alessio Arena, autore di La letteratura tamil a Napoli, intervistato da Adriano Palazzolo. Prima di chiudere, una segnalazione. Ogni mercoledì, in edicola, con Il Sole 24 Ore, ci saranno 20 volumi, per 20 settimane naturalmente, con le migliori avventure di Jules Verne, diciamo il padre del romanzo scientifico. Si parte il 26 novembre con Il giro del mondo in 80 giorni, secondo appuntamento il 3 dicembre con Viaggio al centro della Terra. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Fabio Cantadori, vi ricordo che mi trovate su Twitter come Ale Teddina e su Facebook come Il Cacciatore di Libri-Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.